Viaggio in Italia di Gigi Donelli. Praticamente io sono qui dal 35, quindi perché da Trastevere sono venuta qui. È diventato un quartiere multietnico e mi piace. Che adesso il Pigneto lo paragonano al Trastevere per tutti questi vicoletti. La mia paura è che sta cambiando e vedo che magari mandano via persone che noi conosciamo da tanti anni, che erano in affitto, le case le vendono a persone. Poi ci sono tutti stranieri, tutte anche persone che dicono, io non lo so, della TV. E mi dispiace vedere, insomma, andare via gente come mia nonna era una casalinga, mio nonno lavorava alle ferrovie, gente semplice, insomma, mio padre era operaio all'ADAC, quindi gente semplice, proletari. E vorrei che diventasse un quartiere snob, che la cosa mi darebbe molto fastidio. Dopo 40 tappe attraverso la penisola, eccoci dunque a Roma. La capitale enorme si distende come un mosaico urbano di tale complessità e ampiezza da imporre modestia. Un racconto impensabile che mi spinge ad arrestarmi a Porta Maggiore. Non andrò oltre. La città eterna resta sullo sfondo, al di fuori della mia portata. La mia Roma sarà quella del Pigneto, un quartiere popolare cresciuto ai margini della storia, tra la Casilina e la Prenestina, al di là delle mura aureliane. Un paesaggio agreste fino al Novecento, che cresce come sobborgo popolare dopo le trasformazioni umbertine, che diventa una zona di ferrovieri ed operai che alimentano fabbriche oggi ridotte a fantasmi e che dopo la guerra viene investito dalle grandi masse che si gettano sulla capitale. E poi ecco, magari con l'anni che cosa è successo? Si sono diciamo moltiplicati i palazzi, ha migliorato. E poi che cosa è avvenuto qui storicamente dopo la guerra? È diventato famoso per i due grandi film, L'Accattone e Roma città aperta con Anna Magnani. Non so se ricordate quell'alternarsi di case popolari e di baracche cresciute intorno a Sant'Elena fuori porta. La chiesa di Sant'Elena, quella dove il parroco Aldo Fabrizi attende la signora Pina per il matrimonio con Francesco, che non arriverà mai. La signora Pina, volete l'ova a 16? Appiantela, va. Come mi permettete, in mia presenza. Questa è Borsa Nera. Borsa Nera, resistenza, fascismo e antifascismo, scontro fisico e amore carnale. Il Pigneto fa parte di uno spazio esploso nel dopoguerra, lontano dagli occhi e dal cuore della società italiana. Un grande triangolo isoscele che punta verso la stazione Termini e si allarga tra Largo Preneste e la Marranella, lasciando sullo sfondo i Colli Albani. È la Roma tutta vizio, sole e croste, dove Ninetto Davoli chiede conto al borghese Pasolini della sua personale discesa agli inferi. Ma perché, per esempio, tu quando fai film come a Cattone, Mamma Roma, a girare in posti, come per esempio qui in casa mia, posti qui del Borgata? Guarda quei ragazzini, guardali bene. Ti sono più simpatici questi ragazzini qui oppure dei ragazzini che siano quelli che tu chiami figli di papà? Io sono più simpatico di questi qua. Beh, io ero un figlio di papà. Purtroppo sono stato un figlio di papà. Un padre ufficiale, la madre maestra, insomma tutto quello che sono vissuto per tanti anni, finché ero già grande, nell'Italia settentrionale, tu lo sai, nel Friuli, in Bologna. Sì. Poi sono sceso in presente a Roma e ho conosciuto un mondo che non avevo mai conosciuto, cioè il mondo del sottoproletariato, lo sai che cos'è? No. Lo sai che cos'è? No. È il mondo di gente che lavora dove non ci sono industrie. A Milano gli operai sono dei proletari, a Roma dove non ci sono industrie, a Napoli, in Sicilia, invece c'è il sottoproletariato perché non ci sono delle fabbriche, delle industrie. La SNIA di Largo Preneste è il simbolo di questa industrializzazione mancata, chiusa ormai da 50 anni. Questo in un quartiere popolare e popoloso, un'alternanza di palazzine e villette degli anni 20 e 30, di palazzoni costruiti negli anni 70 per trasformare in un quartiere quell'esplosione demografica del dopoguerra che Guido Piovene, attraversando la periferia romana, indicava come la principale sfida della città. Gianluca Santilli è il presidente del consiglio del municipio Roma 6. In quel periodo lì era proprio la zona, il periodo in cui questa zona subiva la più grossa trasformazione. Si è creata questa una crescita urbanistica incontrollata, che praticamente ha determinato la nascita di borgate, lo sviluppo di enormi zone di frattura sociale. Fine anni 60, primi anni 70, avevamo ancora 2000 famiglie che vivevano nelle baracche, cioè come le favelas di Rio, insomma, avevamo proprio zone sterminate, abitate da baraccati, senza acqua potabile, senza fognature, che vivevano in locali fatiscenti. La circolazione aumenta in ragione di 4 veicoli all'ora. Nella Roma del 50 c'erano 52.000 automobili, nella Roma del 53 sono diventate 110.000. Il ritmo era impressionante. Queste erano le zone in cui si riversava. E soprattutto non abbiamo avuto un adeguato sviluppo della rete dei trasporti, e quindi con il conseguente intasamento delle consolari, le due arterie principali, e per la popolazione che abita qua, ma a specie per causata dalla popolazione che parte dagli altri municipi, dalla fascia più esterna, per recarsi in centro. Quindi noi abbiamo vissuto per anni il dramma della Prenestina, fino a quando non è stato costruito quel mostro della sopraelevata, che poi ha risolto, se da una parte ha risolto i problemi del traffico locale e di attraversamento della Via Messina, però ha creato una costruzione di un impatto terrificante. Era un quartiere di abruzzesi veramente, sì, però ecco, diciamo, se ce levassero la sopraelevata sarebbe una gran bella cosa. Sì, vabbè, ma poi, oddio, certo, il Pigneto, se il mercato fa pena, praticamente, perché tutto rotto. Ci sono tante cose che non vanno. Speriamo che dicano che lo devono rimettere in sesto. Speriamo che qualche cosa combinino. Di fronte alla scuola elementare Toti mi fermo a parlare con Beppe, tappezziere da più di 40 anni qui proprio in via del Pigneto. Di fronte al suo negozio sono rimasti gli ultimi pini di quella lunga via che si perdeva in campagna, che dà appunto il nome al quartiere. Sta cambiando nel meglio. Il problema, dice, quello che verrà con la metropolitana, boh, solo Dio lo sa. Che ce l'ha proprio davanti. No, la metropolitana che lì giù c'è l'uscita, e poi raggruppa fino a circa 20 km fuori Roma, dove sbarcherà tutta sta gente. Dovranno fare dei parcheggi, dovranno fare delle cose che so io, boh, non lo so. Ecco perché la gente è un po' preoccupata. Ci porterà del bene? Si guasterà? E questo ancora non si può sapere. Qui per esempio si è riempito di tutte le razze d'Europa. Non mica si sa quanti ce ne stanno. E di conseguenza non si sa, prima, quando, che parlo di 20-30 anni fa, passava un negro, no? Allora tutti andiamo via a vedere com'è nero, guarda com'è lucido, quando solo avrà preso, no? Ma invece famo, guarda, ma passa uno bianco là. I senegalesi della comunità sono i vicini di Beppe ormai da qualche anno, i rapporti sono buoni e le donne che amano essere curate dentro e fuori casa sono le sue nuove clienti. Mi sposto di pochi metri da via del Pigneto a via Coronelli. Franco Palmieri è il custode di un museo del giocattolo. Giornalista nella vita, ha scritto di questo quartiere e delle sue trasformazioni. Qui c'erano le baracche, qui c'erano gli sfollati. Qui c'era gente che viveva di notte dentro una stanza con una promiscuità che non finiva mai. Le ragazze, quando avevano 20 anni, andavano a battere al mandrione, e così anche le mogli. I genitori facevano stracciavolo, robe vecchie, o i papponi, insomma, no? Era una condizione di vita primordiale proprio, no? Questo quartiere che fase vive? Si è molto imborghesito. Adesso il quartiere è spaccato, perché addirittura c'è una sorta di abitudine al popolare che è diventato quasi snobismo, perché la cultura del popolo è diventata una sorta di fiore all'occhiello, di chi vuole ricostruire una verginità in un territorio dove ci sono state delle accumulazioni estranee, il consumismo, i supermercati, la moda. Invece qui il popolaresco locale, qui sono le trattorie, qui c'è una trattoria che si chiama Trattoria come una volta. Cioè, più banale di così non poteva essere, ma non sapevano come dire che qui si mangia come si mangiava il riso in bivia, per esempio, no? Pasta e ceci, e l'hanno detto in maniera più banale possibile, però così si chiama. Questo quartiere è un quartiere particolare, dunque questo qui è l'unico quartiere di Roma che è rimasto romano, perché è l'unico quartiere che praticamente ha vissuto il complesso di priorità rispetto al centro storico. È un quartiere che è rimasto, è stato strumentalizzato durante il periodo fascista, perché quando hanno sventrato il centro storico hanno costruito le prime grandi case popolari. Se lei va, dopo essere stati espulsi dal centro a varie ondate, gli abitanti del Pigneto ora si trovano a confrontarsi con il centro che viene invece al Pigneto. Sentiamo come, subito dopo gli aggiornamenti per Chi in Viaggio.